Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, si riparte inevitabilmente dalla Siria anche in questo spazio europeo. Sentiamo subito la voce di Elmar Brok. Elmar Brok è il presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo. Dice Brok: io non credo che in realtà l'Europa sia così divisa come stanno dicendo i media in questi giorni. La questione vera è chi fa cosa. Tutti devono prendere parte a questa azione e naturalmente definire i dettagli e le competenze è una questione complessa. In questa intervista realizzata da Letizia Markakis per conto di Euronet Plus spiega e dice: non credo che la Germania dirà no all'intervento, e la questione per quanto riguarda Berlino in particolare è che non parteciperà direttamente all'iniziativa. E a proposito del dibattito sul fronte europeo e nel Parlamento europeo, noi abbiamo sentito anche il punto di vista di un altro parlamentare, Pino Arlacchi, Socialisti e Democratici. Sentiamolo. Ha evidenziato una larga parte dei parlamentari europei contrari ad un intervento militare di qualunque genere in Siria, per due ragioni. Primo, la scarsità di prove e l'assenza di informazioni credibili su cosa è davvero successo a proposito dei gas. E il secondo punto sono il fatto che non c'è nessuna autorizzazione da parte del Consiglio di sicurezza e il grande monito dell'Iraq. La prudenza, diciamo, in questo caso è doverosa, oltre che legittima. Dall'altra parte, ancora pochi giorni fa, Bruxelles manifestava l'opposizione siriana dicendo l'Europa non prende posizione. Questo è vero, perché l'Europa è paralizzata dalla spaccatura tra due stati, la Francia e la Gran Bretagna, che sono le ex potenze coloniali che hanno disegnato il Medio Oriente in passato a proprio piacimento, che sono favorevoli ad un intervento militare a fianco degli Stati Uniti, e in gran parte degli altri paesi, devo dire qui l'Italia ha preso una posizione molto simile a quella tedesca, che non credono a una soluzione militare, premono invece per le trattative di pace a Ginevra come unica soluzione alla dramma della Siria e come unico modo per evitare una destabilizzazione dell'intera regione. L'Europa di fatto in ordine sparso nei momenti di gravi crisi? Purtroppo è quello che sta avvenendo. Vedete dunque qual è, o meglio sentite qual è la situazione. Elmar Brok e Pino Arlacchi sono entrambi membri della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, hanno partecipato alla stessa riunione, la posizione è alquanto divergente. Intanto torniamo in Italia perché domani a Roma apre lo European Space Expo, un evento itinerante che investe anche in termini appunto di soldi spesi dalla Commissione Europea per questo tipo di progetto sullo sviluppo tecnologico. Ce ne parla il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani. Innanzitutto utilizzando i satelliti del sistema Galileo che saranno operativi per la realizzazione di servizi entro la fine del 2014, inizio 2015, potremo dare servizi importanti nel settore dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, della produzione civile e della salute. Quindi quello che si fa nello spazio serve soprattutto per dare servizi ai cittadini sulla Terra. A fronte di un investimento di una decina di miliardi di euro avremo risparmi per circa 90 miliardi di euro grazie alla realizzazione di Galileo. E questa mostra che si inaugura a Roma, sarà a Roma Piazza del Popolo per una settimana, è una mostra itinerante che mostra con dei servizi interattivi come potranno essere utilizzati i segnali del sistema Galileo. Siamo in giro per tutta l'Europa e è un appello che noi rivolgiamo soprattutto ai giovani e agli imprenditori di visitare questa grande mostra che, ripeto, a Roma è a Piazza del Popolo da domani mattina per una settimana, affinché si rendano conto di quanto si può fare attraverso il sistema satellitare europeo che è diciamo così, il GPS della nostra Unione. Antonio Tajani è vicepresidente della Commissione europea, con lui concludiamo questo appuntamento. Vi ricordo, ritrovate tutto su radio24.it, mentre il nostro appuntamento domani intorno alle 13.10. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.